bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina appena alzata a Zingonia mi tocca andare. E con la nebbia e il brutto tempo, oh bella ciao, bella ciao. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. mossa per non fare intimidire, rispondiamo alla direzione e ci fa proprio divertire. Il posto, il lavoro, passiamo davanti alla RAI. Via! La prete! Il nostro fatto. Grazie al Disi. Se la subito per me della la Madonna. Dì che poi lo porto un po' lui. Ma va bene, ma dico loro che con noi. Avanti al popolo! Siamo in via Orefici, stiamo per entrare in piazza Duomo. fascisti!